swear. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, no, this is not really happening. You bet your life. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. Resistere, esistere, persistere. Avevo conosciuto due persone. La ragazza che non sono. Il ragazzo che pensavo di non poter essere. Ma poi ho deciso di emanciparmi. Anche se non esistono centri antiviolenza per proteggere uno da se stesso. Non esistono, no. La normalità è incoscienza. Mi manca e non mi interessa. Che l'ultima democrazia si impicchi. Con le budella dell'ultimo sociologo sono ancora vivo, sono ancora qui. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è l'ultima trasmissione dell'anno politico. Con giugno finiamo le trasmissioni del 2014-2015 e chiaramente ci risentiremo il primo mercoledì di ottobre. Poi nel frattempo rimanderemo per grossi argomenti alcune sintesi di quello che abbiamo trattato in questi mesi e magari le metteremo sul sito della radio, adesso vediamo, e più o meno che ripercorrano quello che abbiamo detto e quello di cui ci siamo occupate, che siano motivo di riflessione. Allora, eccoci qua. L'ultima trasmissione, cioè, insomma, vi vogliamo lasciare con un argomento che dà un mucchio da pensare e che riguarda un'operazione militare statunitense che si chiama Jade Helm. Non so se si pronuncia così proprio, ma vorrebbe dire, secondo loro, scudo di giada, una roba del genere, questi nomi estremamente romantici che mettono alle operazioni militari. Allora, di operazioni militari USA ne vengono fatte tantissime, cioè non è che sia una cosa eccezionale, però questa ha delle caratteristiche e dei connotati assolutamente diversi. This is a story that I know I'll believe in, so I'm leaving everything behind. Il Jade Helm è un'operazione militare diversa. Perché? Perché è un'operazione che gli USA faranno quest'estate in alcuni dei loro stati, cioè sul loro territorio. È un'operazione fatta a casa loro, ma allo stesso tempo è un'esercitazione di occupazione territoriale e di controllo sociale a tutti gli effetti. Fondamentalmente ha due obiettivi, che però man mano adesso tireremo fuori leggendo delle parti proprio del documento ufficiale con cui questa operazione è stata lanciata. Noi l'abbiamo tradotto perché in effetti gira poco, però ci ha colpito il tipo di esercitazione, perché è completamente diversa da tutte quelle militari fatte finora. Allora, uno dei loro documenti dice: il comandante del comando dell'operazione speciale dell'esercito degli USA, eccetera, chiede l'approvazione agli organi ufficiali locali per attuare il Realistic Military Training, RMT, all'interno della loro giurisdizione. Che cosa significa questo? Che è un'operazione condotta sul territorio nazionale di diversi stati. Sono stati scelti degli stati e degli stati dell'Unione e sono stati catalogati a seconda di caratteristiche di pericolosità, ma non effettiva, no, è come un gioco, no? Loro hanno deciso che tutta una serie di stati hanno una pericolosità alta, tutta un'altra serie di stati in questa esercitazione avranno un altro tipo di pericolosità, e hanno chiesto la collaborazione per l'operazione agli ufficiali locali, no? Perché sono all'interno della loro giurisdizione. Allora, quindi, che cos'è il Realistic Military Training? È un'esercitazione, leggo sempre dal loro documento, condotta al di fuori del territorio federale ed è progettata per assicurare una coordinazione appropriata tra i rappresentanti delle forze armate, cioè dell'esercito, dell'aviazione, eccetera, e le autorità regionali e locali. Il processo include le seguenti misure: valutazione del rischio, piani medici e della comunicazione, accordi di licenza, aree di allenamento, stage, simulazioni, revisioni legali, identità del training, aree di stage, giocatori di ruolo, campi di atterraggio, indagini sulle zone. Ma non solo questo. Questo sembrerebbe una normale, quello che fanno normalmente in tutte le operazioni. Però perché vengono coinvolte le amministrazioni locali? Perché il Jade Helm, leggo sempre da loro, è un'impegnativa esercitazione militare e una guerra non convenzionale di 8 settimane, condotta in Texas, New Mexico, Arizona, California, Colorado e Utah. E praticamente avrà luogo dal 15 luglio al 15 settembre 2015. I partecipanti sono le unità caratteristiche dell'esercito, aviazione, eccetera. Però il JDELM ha due obiettivi. Allora, uno, di abituare le popolazioni occidentali, cioè le popolazioni, in questo caso americana, ma è rivolta alle popolazioni occidentali, abituarle all'occupazione territoriale militare e alla legge marziale. Questo che significa? Che in questi territori, che sono stati individuati come più o meno pericolosi in maniera fittizia, no? Più o meno pericolosi, si attueranno due livelli di esercitazioni. Una è un'esercitazione territoriale con la presenza effettiva dei militari a tutto campo, una presenza reale, per cui la popolazione dovrà fare i conti con la presenza di carri armati, la presenza dei militari, il sorvolo degli aerei, e dovrà abituarsi alla militarizzazione del territorio e anche alla convivenza con questo tipo di soggettività, che porta quindi a una regolamentazione completamente diversa. Perché si parla di legge marziale? Perché di fatto i rapporti tra militari e civili devono essere regolati in maniera non dico adeguata, perché è un termine che non ritengo adatto, ma comunque diversa dalle normali leggi civili. Invece l'altro livello riguarda quei territori in cui i rappresentanti, o comunque insomma quelli che partecipano a queste esercitazioni, verranno infiltrati all'interno della popolazione in abiti civili, in borghese quindi. Allora, chi parteciperà a questa operazione e quando? I partecipanti sono il comando delle forze speciali dell'esercito statunitense, la marina militare, il comando delle operazioni speciali dell'aviazione militare, il comando delle operazioni speciali della marina e le unità della marina, 82esima divisione aerotrasportata, Partners Interagency. Allora, luoghi di esercitazione in Texas, ci sono le varie città. Poi c'è un punto in cui si dice: perché il Texas? Il comando per le operazioni speciali statunitense ha condotto numerose esercitazioni in Texas perché i texani sono storicamente sostenitori degli sforzi per preparare i nostri soldati, aviatori, marines e marinai nel combattere i nemici degli USA. Poi perché il Texas, per perfezionare abilità avanzate, le forze armate e l'interagency richiedono vaste aree di terra sottosviluppata, con una bassa densità abitativa e con accesso alle città. Le aree proposte offrono le condizioni favorevoli alla qualità dell'allenamento in forza degli ostacoli reali che stimolano il personale di Joint durante la pianificazione e l'esecuzione dei loro compiti. Queste sfide includono operare al di fuori dei meccanismi di normale supporto, adattamento ad un terreno non familiare alle condizioni sociali ed economiche, operare nelle e attorno a delle comunità dove nulla al di fuori dell'ordinario verrà riconosciuto e riportato. I locali, cioè la popolazione locale, sarà la prima a notare qualcosa fuori posto. L'opportunità di lavorare con i civili per guadagnare la loro fiducia ed una conoscenza delle problematiche. Allora, questo cosa vuol dire? Che le popolazioni occidentali, quindi le popolazioni di questi territori, si devono occupare, si devono abituare all'occupazione territoriale militare, no? Però si spingono anche i cittadini, soprattutto nei territori in cui ci sono i militari infiltrati in borghese o comunque lavorano all'interno della popolazione, spingere i cittadini al collaborazionismo, cioè quello che noi diciamo, diventare tutte e tutte spie e delatori. Perché? Perché viene richiesta alla popolazione la partecipazione attiva nel segnalare situazioni di irregolarità, monitorare il territorio, riferire, segnalare individui sospetti, e viene spinta a fidarsi dei militari, cioè il referente per qualsiasi tipo di anomalia è il militare o comunque, e allo stesso tempo poi ci sono dei personaggi appunto in borghese che si infiltrano e cercano di carpire la fiducia dei cittadini. Questo che, perché serve questo all'esercito? Perché ha due obiettivi: uno, imparare a gestire le popolazioni occidentali; due, imparare a gestire situazioni di questo tipo nel terzo mondo, quindi rapportarsi con le popolazioni che vengono invase e allo stesso tempo imparare a avere la loro fiducia. E poi c'è uno scambio tra le esperienze che i militari faranno in questa situazione di esercitazione fittizia sul territorio e le esperienze che hanno già fatto nei territori che sono stati invasi, e quindi la guerra neocoloniale viene portata nei territori occidentali, l'esperienza dei territori occidentali e dei grandi agglomerati urbani, il controllo dei grandi agglomerati urbani viene portato nei territori del terzo mondo. Quindi è un controllo a tutto campo e una ricerca della collaborazione della cittadinanza, no? Di fatto è una sperimentazione. Perché? Perché in un altro documento che abbiamo sempre qui sotto mano, fatto da loro, dice che la natura del conflitto cambia in continuazione, cioè loro si stanno continuamente allenando ai cambiamenti del conflitto che avvengono sia sui territori nazionali sia sui territori extranazionali, quindi appunto soprattutto nelle popolazioni invase del terzo mondo, e devono studiare strategie di adattamento e strategie di offesa e di difesa. E oltretutto pensano che questo tipo però di monitoraggio e di strutturazione di controllo sarà necessario anche sulle popolazioni loro, sulle popolazioni locali, sulle popolazioni americane, altrimenti non l'avrebbero preso come territorio di sperimentazione e coinvolta la popolazione locale, no? Infatti dice, questo l'ha detto in una mail uno dei colonnelli portavoce del comando, no? Che l'addestramento JDELM assisterà i nostri soldati nelle operazioni speciali e nel rifinire le abilità necessarie contro una minaccia che cambia in continuazione. Questa minaccia però è sia sul territorio interno che su quello esterno. I wanna sing, but I think I better hold up. We got me high, ooh, got a little ride. Can't stop, won't stop, rockin' till I die. Now, as I flip the hip hop drops on ya, guilt real soul singer, Eric E. Bly and Bahamadia, original shine, girl, and me. Hey, that's me. I can rock you so dangerous. My name's Bahamadee and came to chick in the game, get it done like me. I've been chose by G.O.D. to show the whole wide world a meaning of it. MC. Look, I be in love with a thing called hip hop. We go together like beat boys and shell tops, and it don't stop because it can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis, soloist with the Philadelphia accent. A living legend, baby, throw me on the track in. I'm guaranteed behind my DJ to crack in. Quindi quando è uscito diciamo, quando è uscita la notizia di questa operazione J-Delm 2015, che non è uscita proprio in maniera straufficiale ma ha cominciato a circolare su internet eccetera, ci sono stati dei giornali tipo il Washington Post che insomma e anche diversi altri organi di stampa che si sono posti delle domande, no? E però tutto sommato l'esercito ha risposto che anche in passato sono state fatte delle esercitazioni di routine di questo tipo in regioni degli Stati Uniti identificate come ostili a scopo di addestramento. E infatti hanno detto per esempio il Boulder, mi scuso sempre per l'inglese che non è per fortuna la mia lingua, il Boulder Alligator, non so come si dice, che è un esercito navale nella quale nel passato sono stati coinvolti migliaia di soldati e marinai. La versione più recente è stata lanciata lo scorso inverno e prevedeva atterraggi anfibi per prevenire gruppi che insorgevano in un finto paese conosciuto che vanno denominato Garnet, no? E che era la Georgia e parte della Florida, nella realtà era Georgia e parte della Florida. Poi un'altra esercitazione è sempre stata nel North Carolina, che si chiamava Robin Sage, ed era diretta come se ci fossero state finte forze guerrigliere in queste regioni del North Carolina. Poi c'è stata un'operazione che si chiamava Green Beret, penso berretti verdi, Green Beret, che lavoravano insieme per liberare un fantomatico paese, Pineland, e operavano in prossimità dei civili, i quali sono stati avvertiti che potevano sorgere scenari di guerra, che potevano sentire armi da fuoco, eccetera eccetera. Poi per esempio un'altra operazione speciale della Marina, che è stata chiamata Derna Bridge, e che sempre nel South Carolina occidentale, che includeva altre operazioni di questo tipo. Quindi questa non è altro che il momento finale, perché loro hanno già sperimentato diverse operazioni parziali. Beh, ricordiamo anche in questa carrellata che hanno anche sperimentato sul loro territorio la bomba nucleare, hanno effettivamente utilizzato, no? Una esplosione nucleare, certo, per provarla. Quindi, proprio l'altro giorno è passata una notizia sotto silenzio, poi su televideo, per cui un trafiletto, no, di questi che passano ogni tanto, poi di un'informazione assolutamente mainstream, che gli americani hanno durante la seconda guerra mondiale fatto delle prove con dei gas particolari per verificare la reazione delle pelli non bianche, e quindi l'hanno fatta sui soldati neri, sui loro soldati neri e soprattutto neri orientali. To the man, all concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans, don't care who they offend, poppin' yeah. Like you got yeah. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris style by the casement, still the name of his basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their three and four kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking heart breaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick job asking to stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Dopo questa prima parte della trasmissione in cui quindi vi mettiamo estremamente in guardia dalle politiche imperialiste e di dominio dello Stato del Capitale, cioè gli Stati Uniti, e dalle politiche di controllo sociale, militare e comunque a tutto campo che il neoliberismo mette in atto, leggiamoci la parentesi. La parentesi di Elisabetta. Poveri e povertà. Nella tradizione cristiana, che tanto parte ha avuto nella storia dell'Europa e di questo paese, La Chiesa, rifacendosi alla frase riportata nel Vangelo, quella che dice: è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago piuttosto che un ricco vada in paradiso, ha prestato molta attenzione ai poveri, assolvendo però un ruolo di assopimento della loro voglia di lotta e della loro capacità di riscatto, con una cultura che teorizzava che le povere e i poveri avrebbero avuto il premio per le pene e le miserie di questa vita in quella dopo la morte. Non solo, ma facendo proprie le teorie di San Tommaso, secondo cui ci si salva attraverso le opere, invitava i ricchi e i potenti a fare l'elemosina per guadagnare il paradiso. Così il cerchio era chiuso, i poveri accettavano la loro condizione e i ricchi e potenti si mettevano a posto la coscienza. Il tutto veniva fatto rientrare nell'ordine naturale delle cose. La rivoluzione d'ottobre ha scompaginato questa impostazione, quando il comunismo si è fatto potere. Attese millenaristiche e catartiche c'erano sempre state, ma la novità rappresentata dalla rivoluzione bolscevica è stata enorme. Queste attese, per dirla come la Chiesa cattolica, si sono fatte carne e sangue. La condizione delle classi subalterne entra prepotentemente nello scenario della storia e della politica. Il capitalismo adotta la soluzione socialdemocratica allora e comincia a parlare di guerra alla povertà. Prospetta soluzioni riformatrici gradualistiche, viene propagandato l'immaginario di un progresso lento ma ineluttabile, un continuo miglioramento delle condizioni dei poveri e dei subalterni. Ma è dalle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono a cascata i contratti nazionali di lavoro, lo Stato sociale, la sanità e le istruzioni pubbliche. Anche in campo internazionale il vento del comunismo e il rifiuto della cultura colonialista portano le lotte di liberazione nazionale. Quando i paesi affrancati dal colonialismo si trovano a fare i conti con una popolazione impoverita dalla predazione coloniale, viene coniata la teoria del desarrollo, l'equivalente delle teorie socialdemocratiche nostrane applicate ai paesi del terzo mondo, che avrebbero potuto così godere di un miglioramento delle condizioni economiche e di un continuo progresso. Il neoliberismo, l'attuale ideologia vincente, con la complicità della sinistra riformista e socialdemocratica, che ha cambiato pelle ed è diventata destra moderna, ha rimosso dall'immaginario l'idea di comunismo e di libertà. La povertà quindi non è più un crimine perpetrato dalla società, ma una colpa dei poveri. Viene introdotto un approccio che può essere definito razzismo di classe nei paesi occidentali, con un ritorno all'equazione ottocentesca: poveri uguali delinquenti, quartieri popolari uguali sentine di ogni bruttura. Il ritorno all'Ottocento è uno dei tratti caratteristici della società neoliberista. Allo stesso tempo, nei paesi del terzo mondo, l'uomo bianco ha la pretesa, come nell'Ottocento, di emancipare quei popoli che non sarebbero in grado di gestirsi da soli, naturalmente per colpa loro, perché brutti, sporchi, cattivi e ignoranti. Da qui le cosiddette guerre umanitarie, che altro non sono se non neocolonialismo. È il ritorno alla cultura protestante, che non a caso coincide con l'ascesa politica della borghesia. La ricchezza è il segno della benevolenza di Dio, concetto che tradotto in termini laici significa che si è ricchi perché si è più intelligenti e più capaci. Infatti ora, nella stagione neoliberista, una porzione della borghesia, quella transnazionale, si pone come aristocrazia e ha sostituito Versailles con Washington. È il trionfo dell'innatismo e dell'idealismo. Si è quelli che si è per nascita e non per le vicende economiche, politiche, storiche e sociali. La povertà è una colpa e la ricchezza è un merito, omettendo completamente che i ricchi, quelli che ce l'hanno fatta, sono spesso i più corrotti, più servili, delatori, quelli senza scrupoli, e a livello di nazioni, quelle che seminano morte e distruzione quando non arrivano a veri e propri genocidi. Teorizzare che essere ricchi e potenti è per meriti propri non è altro che la trasposizione della lettura religiosa che quello che accade l'ha voluto Dio, omettendo le dinamiche sociali ed economiche e dimenticando altresì che per diventare ricchi e potenti si sdoganano e si materializzano gli aspetti peggiori dell'essere umano. In questo si realizza l'etica nazista del suprematismo di razza e di classe, che infatti è un'altra delle caratteristiche precipue del neoliberismo. Il neoliberismo nel suo dipanarsi e nel suo realizzarsi ha suscitato in maniera chiara e compiuta la necessità di un progetto di rottura rivoluzionaria per i paesi occidentali e per i popoli del terzo mondo, progetto a cui noi, come femministe materialiste, intendiamo dare tutto il nostro apporto nella consapevolezza che non ci sono altre strade percorribili. It's over, baby. You see that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? E rieccoci qua per la seconda parte, e come diceva Eli, insomma, riparteciperemo di nuovo al progetto di E-Street. Per voi che vi ricordate che cos'era, e per chi non se lo ricorda lo raccontiamo di nuovo. È un progetto nato dallo spazio sociale Ex 51 a Valle Aurelia, per proporre una controestate diffusa che andasse contro la logica del profitto. e quindi che si mettesse direttamente in contrasto con quello che è il, l'agire del, del capitale su quello che è tutta la, l'ambito del divertimento, del, dell'aggregazione sociale, dei tempi di vita che non riguardano quelli lavorativi o quelli di studio. E ovviamente ci è sembrata un'ottima proposta, anzi che seguisse comunque delle linee fortemente femministe nella, nel, nel suo essere, e anche perché appunto il tempo libero è inteso per noi come tempo liberato, quindi un tempo che è fuori da, dalla produzione, no? Fuori da, da tutte queste logiche in cui c'è produzione o consumo, ma sono momenti appunto liberati dove uno appunto si, si può confrontare con gli altri, discutere, bere una birra, bersi un tè, però appunto tutte queste cose poi invece passano per la logica del profitto, a meno che appunto non si compra il tè in bustina e se lo fa a casa, perché passano comunque attraverso locali che lucrano comunque su aperitivi, su il tè, su tutti gli spazi. Lo stesso vale per i luoghi della musica, no? Per vedersi un concerto di un certo tipo, no? Al di fuori del circuito degli spazi e dei centri sociali, ci troviamo comunque a dover spendere magari 40 euro per andare a vedere un bel concerto, e così insomma via dicendo, insomma la, la, la situazione si allarga su ogni piano. E in questo modo noi l'abbiamo, abbiamo anche dato una lettura di tempo libero che viene liberato, proprio perché in realtà ci sentiamo che tutto questo sfruttamento che viene dato anche alla parte appunto di vita che in realtà non apparterebbe al capitale teoricamente, o almeno in senso forse ormai antico, perché insomma il capitale ha sussunto qualsiasi momento della nostra esistenza, che non è appunto la produzione effettiva, no? Quella, quella lavorativa, ma ovviamente con tutto un ampliarsi, no? Del, dello sfruttamento anche su situazioni che riguardano appunto terzo settore o comunque, cioè nel senso il consumo, a quel punto noi non siamo più niente, siamo semplicemente consumatori, quindi ovviamente ogni nostra esigenza è completamente delegata a quello che riguarda lo, lo, lo spendere soldi o comunque ingabbiarci in qualche modo, no? In questa, in queste forme, no? Di cultura che poi sono culture egemoniche, perché nessuno mette in dubbio che il concerto strafico del che costa 40 euro sia per forza un'egemonia culturale, però è passato che è normale, capito, pagare un concerto, che è normale che non ci vai perché comunque fai il conto che se spendi 40 euro poi però non ti puoi permettere per tutta la settimana assolutamente più nulla, né una birra fuori né di mettere benzina nel motorino, per esempio, no? E quindi cioè in realtà è una gabbia un po' più dorata, un po' meno visibile, no? All'occhio, all'occhio umano, perché ormai appunto l'egemonia culturale ha completamente devastato le menti di tutti quanti, e quindi ci giustifichiamo quando non abbiamo soldi perché è quasi colpa nostra che non ci possiamo permettere in realtà una vita appunto che sia fuori da, da questi circuiti. E in questo modo Estritta ha tentato di proporre attraverso l'auto-organizzazione e quindi appunto con proposte dal basso tutta una serie di iniziative che sono state fatte l'anno scorso, che trovate comunque su, sul blog riprendiamoci l'estate, no, appunto noblogs.org, e anche sul nostro coordinamenta.noblogs.org, e dove trovate comunque tutti i documenti pubblicati. E questo è il motivo per cui in realtà noi abbiamo aderito come coordinamenta, proprio perché le fila del, del discorso erano, erano politiche, non erano una proposta semplicemente ludica, no? Come può essere facciamo l'aperitivo per le spese legali, che comunque è altrettanto politico, però lo fai perché ti sei, cioè, tenti di organizzare qualcosa che abbia uno scopo che però è purtroppo, perché non l'abbiamo deciso noi, a fini, no, economici, perché o come di sostegno alla radio. Qua invece è proprio una messa in discussione a quello che è la nostra vita, il nostro tempo libero, la, la, il nostro spazio di vita, e riappropriarci di questo spazio per noi può avvenire solamente attraverso l'auto-organizzazione, e quindi la messa in discussione partendo da noi stesse su quello che è il nostro tempo, su quello che lo spazio, sulla qualità di questo tempo di vita, e appunto da lì partire e tentare di creare, appunto, ognuno poi con le sue capacità, ognuno con le sue, con i suoi interessi anche, no? Iniziative che riempiano l'estate in maniera da pure da toglierci, insomma, da questi circuiti che appunto non fanno altro che dissanguarci e che poi ricreano questa questa ghettizzazione, no? Perché comunque poi andare al centro in questi quartieri vetrina, in questi quartieri radical chic, no? Dove tutto costa troppo, spinge poi chi non abita magari esattamente in quel quartiere a rimanere sotto casa sua e a fare la comitiva sul muretto, perché comunque non ti puoi permettere, no? Di andare là, e quindi c'è questa ghettizzazione, per cui a quel punto, oltre allo spazio di vita, oltre al tempo di vita, ti hanno tolto anche in realtà il poter esistere. Quindi appunto vi volevamo dare l'appuntamento della prima iniziativa che apre E Street, e ovviamente lanciamo anche la proposta, no, a partecipare a tutte queste iniziative che troverete poi sui blog, e con quella dello spazio sociale Ex 51 il 3 luglio dalle 17, quindi anche la parte più ludica che riguarda, diciamo, bambini e bambine nel parco. E infatti ci troverete nel parco che sta sotto i Palazzi Rossi, che sono i palazzoni di Valle Aurelia, e ci sarà la presentazione del CD Rap versus Discarica, che è una produzione fatta con i compagni del laboratorio Hip Hop Meticcio Sterial e i compagni dell'Ex 51 e del Macchia Rossa, di un anno e mezzo fa, appunto, quando ci siamo interfacciati con tutto il mondo delle discariche, della speculazione di questi centri di raccolta di immondizia, e quindi presentiamo questo progetto finalmente anche a Valle Aurelia. E ci sarà anche la presenza dei Pischelli di Valle Aurelia, che improvviseranno in questa jam session hip hop, open mic, open mic, mi sbaglio sempre, mi cazziano tutte le volte, e quindi insomma ci sarà anche la loro presenza, quindi sarà carino, speriamo insomma che passiate, ci sarà la nostra classica braciolata, ci sarà anche roba per non carnivori, non vi preoccupate, quindi siete le ben volute e ben voluti. E dopodiché vi faremo sicuramente, pubblicizzeremo tramite spottino e tramite blog e insomma tutte le modalità possibili e immaginabili anche le prossime iniziative della coordinamenta che aderirà di nuovo a E Street. Allora, ridò l'appuntamento il 3 luglio dalle 17 a Valle Aurelia. leggiamo l'ultima poesia di Denis, che fa parte della rubrica Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe. L'autostima è una truffa da telemarketing. Ho paura e schifo gli eterni coraggiosi, perché ho paura persino di fare una carezza, di uscire fuori dal portone del palazzo, delle grate sui marciapiedi, degli insetti. Quando porto le chiappe in piazza ho paura che i sassi lanciati mi ritornino diritti in fronte. Non ricordo mai i nomi. In mezzo a tutti quelli dei discorsi grandi ho paura di sbagliare teorie e congiuntivi. Quando sono emozionato balbetto. I migliori saranno anche folli, ma io mi sento soltanto pazzo, senza nessun particolare talento. Non sopporto le anime belle, con le vite di cristallo che poi sono vetri sotto i piedi, ficcati nella carne. Mi innamoro degli sconosciuti, per poi scartarli quando li conosco meglio. Non ho mai messo le corna a nessuno, in compenso tradisco le aspettative. Dentro e fuori questa stanza non c'è altro che tempesta, e l'autostima è un'enorme truffa da telemarketing. In chiusura, ci dispiace interrompere questa bellissima canzone che poi a me piace tantissimo, però dobbiamo dare una notizia importante, è questa: che venerdì 26 giugno, cioè dopodomani, alle ore 8 al 22 di Via dei Volsci, nello spazio separato femminista e lesbico di Via dei Volsci 22 appunto, verrà per l'ennesima volta l'ufficiale giudiziaria, ci sarà l'accesso. Però non è un accesso come gli altri, non è il solito accesso, e sarebbe il caso di essere in tante, perché la situazione infatti in via è cambiata, e questo lo leggo dal comunicato che come donne, come femministe, come lesbiche che difendono il 22 è stato fatto. La situazione è cambiata perché il civico 24, dopo essere stato indebitamente assegnato per attività artistiche a una persona, è stato ora venduto all'asta. I civici 26 e 28, dopo aver concesso l'accesso ai locali, sono stati sigillati dalla Questura di Roma in esecuzione del procedimento di integro in possesso, e quindi siamo rimaste solo noi, è rimasto solo il 22, il 22 che non ha mai fatto entrare l'ufficiale giudiziario, che non ha mai fatto prendere le misure, e tant'è vero che non è un caso che adesso ci abbiano dato la data dell'accesso al 26 giugno, soltanto 15 giorni di distanza dall'accesso che c'è stato la volta scorsa. Quindi noi non sappiamo che cosa succederà e non sappiamo come andrà, sappiamo soltanto che l'importante è essere in tante lì davanti per dare un messaggio chiaro, cioè lunga e buona vita agli spazi femministi e lesbici, gli spazi di donne femministe e lesbiche non si toccano e si difendono con la lotta. Quindi venerdì 26 giugno ore 8 tutte, e possibilmente presto al 22. Con questo vi salutiamo, vi ricordiamo appunto che questa è l'ultima trasmissione dell'anno politico 2014-2015, e un abbraccio grandissimo a tutte quelle e a tutti quelli che ci hanno seguito, e in particolare a tutte quelle e a tutti quelli che sono privati della loro libertà. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-heave-ho. Things are getting kind of gross, this is not really happening. Would you